avesse una crisi. E questo ha fatto sì che in qualche modo il Sud America diventasse centrale, ma fatturando soldi che arrivano ovunque nel mondo, e anche qui sono contento che nel libro sono riuscito a cercare di seguire una traccia oggettiva. C'è uno studio meraviglioso fatto dall'Università di Bogotà, che, da due economisti, che dimostrano il 97% del profitto del narcotraffico è riciclato nelle banche americane e europee, cioè la totalità. E una cifra del genere significa che non esiste più la vecchia visione per cui questi fanno i soldi, questi banditi, e se li mettono in questi paradisi del Sud America. Al contrario, l'economia del narcotraffico sostiene l'economia legittima. Proviamo a fare un viaggio virtuale un po' nel tuo libro. La tesi, insomma, principale che viene sostenuta è che ormai il paese a cui fare attenzione è il Messico, anche se il 60% di cocaina si produce ancora in Colombia, però, come dire, lo smercio, la commercializzazione e tutto il resto avviene nel Messico. Eppure tu dici gli Stati Uniti non si sono ancora accorti di questo pericolo Messico e non l'hanno ancora contrastato. Come mai? Perché la cultura americana in qualche modo percepisce il problema come esistente, ma legato alle gang, alle periferie, al vizio. Non c'è ancora una cultura antimafiosa. Io la scrivo al fatto che giudici fatti saltare in aria, giornalisti fatti a pezzi negli Stati Uniti non ce ne sono stati molti. E drammaticamente, purtroppo, queste sono in genere le notizie che sensibilizzano direttamente migliaia, milioni di persone. Gli Stati Uniti sul piano istituzionale hanno la priorità dell'intervento, nel senso che Obama ha spostato praticamente tutto sulla battaglia al narcotraffico e solo in seconda battuta al terrorismo. Per me è stato difficilissimo raccontare il Messico per due ragioni. La prima è che sono tutte notizie più o meno battute dalle agenzie messicane, italiane, americane, e sembrano tutte frammentate e insieme danno piuttosto l'idea di un immenso mosaico di caos, bestialità, infamie, alcolisti che si sparano, addicted che si squartano. Nulla di tutto questo è vero. In realtà dietro c'è una razionalità paragonabile a quella di amministratori delegati, un mercato scientificamente organizzato, e quindi ho cercato di descrivere i cartelli nella loro capacità, diciamo, più feroce ma anche economicamente più raffinata. Purtroppo c'è anche un Made in Italy terribile che abbiamo esportato nelle organizzazioni criminali del Messico. Nel tuo libro proprio fai un esempio di come certi meccanismi di potere mafioso dell''ndrangheta, della Camorra, siano stati trasferiti in queste organizzazioni criminali. Come funziona questo meccanismo? Sono abbastanza persuaso che la frase che si suol dire, cioè che la pianta della coca ha le foglie in Sud America e le radici in Italia, sia un'espressione vera. Vera nella misura in cui le mafie italiane, le più antiche del mondo, o tra le più antiche del mondo, insieme a quella cinese e giapponese, sono mafie di regole. E questo può sembrare strano, perché il paese nostro, che viene percepito senza regole, produce la mafia con più regole, no? In assoluto. Queste regole sono esportate, cioè il know-how della struttura criminale italiana è presa dai cartelli messicani, dai cartelli russi, dai cartelli albanesi, anche i cartelli nigeriani. Cioè le organizzazioni si strutturano secondo la gerarchia mafiosa italiana, ma anche secondo regole precise, che sono quelle di una struttura gerarchica orizzontale, quindi quella andranghetista o camorrista, delle regole che non si vanno mai a sovrapporre alle regole dello Stato, non organizzarsi, come spesso si dice, in antistato, piuttosto organizzarsi come parte dello Stato, non pensare di prendere il posto del potere, quindi non diventare primi ministri, ma al contrario, condizionare i ministri. Comprare i voti. Esatto, comprare i voti per poter contare, ma mai sostituirsi al potere. Dall'Italia non solo si prende il know-how mafioso, ma si prende anche il know-how antimafioso. Tutto questo testo che ho fatto, non avrei potuto scriverne una riga se non fossi stato italiano, se non fossi stato, diciamo, in questa condizione strana che mi permette continuamente di stare a contatto con le polizie italiane, le procure antimafia italiane, dove una buona parte di persone sono, diciamo,

Solo che a un certo punto i pretendenti diradavano le visite e poi non si facevano più vedere. Sempre prima di avere chiesto ufficialmente al mio bisnonno la sua mano. Gentile signorina, cause di forza maggiore mi impediscono questo, nonché il mercoledì 21, di farvi visita, cosa che sarebbe a me graditissima, ma purtroppo impossibile. Allora nonna aspettava il terzo mercoledì, ma sempre arrivava una ragazzina con la lettera che rinviava ancora e poi più niente. Il mio bisnonno e le sue sorelle le volevano bene anche così, un po' zitella, ma la mia bisnonna no. La trattava sempre come se non fosse sangue del suo sangue e diceva che sapeva lei perché. La domenica, quando le ragazze andavano a messa o a passeggiare nello stradone a braccetto con i fidanzati, nonna raccoglieva in una crocchia i suoi capelli, ancora folti e neri quando ero piccola, e lei già anziana, figuriamoci allora, e andava in chiesa a chiedere a Dio perché, era così ingiusto da negargli la conoscenza dell'amore, che è la cosa più bella, l'unica per cui valga la pena di vivere una vita in cui ti alzi alle 4 del mattino per le faccende domestiche, e poi vai nei campi, e poi a scuola di ricamo noiosissimo, e poi a prendere l'acqua da bere alla fontana con la brocca in testa, e poi stai sveglia una notte intera ogni 10 per fare il pane, e poi tiri sull'acqua dal pozzo, e poi devi dar da mangiare alle galline. Allora, se Dio non voleva farle conoscere l'amore, che la ammazzasse in un modo qualunque. In confessione il prete le diceva che questi pensieri erano un peccato gravissimo e che al mondo ci sono tante altre cose, ma a nonna delle altre cose non gliene importava niente. Un giorno la mia bisnonna l'aspettò nel cortile con la zironia, che era un erbo di bue, e iniziò a colpirla sino a farle venire le piaghe, persino sulla testa e la febbre alta. Aveva scoperto, da voci che correvano in paese, che i pretendenti andavano via perché nonna gli scriveva poesie d'amore infuocate, che alludevano anche a cose sporche, e che sua figlia stava infangando non solo se stessa, ma tutta la sua famiglia. E continuava a colpirla e urlare «Dimonia, dimonia!» e a maledire il giorno in cui l'avevano mandata in prima elementare e aveva imparato a scrivere. Vi ricordo che trovate anche questa puntata del Cacciatore di Libri, Parole e Musica, su www.radio24.it. Noi ci risentiamo con questa versione del Cacciatore di Libri sabato prossimo alle 16, con la versione tradizionale, ve la ricordo, come sempre, il sabato alle 6.45 del mattino per i mattinieri e alle 21 dopo il GR. Buona lettura da Alessandra Tedesco.